4 mattino. Ho visto in giro tanti storditi con le macchine, quelle sì, gente che sembrava che non era mai andata in macchina in vita sua, o gente che, liberati dalla prigionia della casa, si scagliavano in autostrada, in tangenziali a tutta manetta. Però girando in giro ho visto anche tanta gente senza la mascherina. Volevo dire che anch'io ho fatto la domanda il 4 d'aprile, non ho ancora ricevuto niente. È tutto corretto, IBAN, categoria, qualsiasi cosa è corretta. L'ho riguardata mille volte, ho fatto la domanda tramite patronato. Ho scritto 7 volte all'INPS, mi rispondono, guarderanno e l'esito è ancora in attesa. Scusa Simone, ma tutte queste misure che vengono attuate tramite decreto del Consiglio dei Ministri e che comprimono pesantemente le libertà individuali, personali, quindi sono misure che di carattere eccezionale, ma come mai non viene mai specificato fino a quando saranno in vigore? Ma io in realtà credo che una specifica ci sia, Mi riferisco ai decreti, quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sui quali poi tanti dubbi si sono appuntati. In genere, appunto, ci sono delle scadenze che sono dettate da questa emergenza. La precedente, se non vado errato, era proprio il 4 di maggio. Sui soldi, sui 600 euro, sui soldi per la cassa integrazione, guardate che c'è un grande tema. Alcuni di voi ci raccontano di averli ricevuti, alcuni non sono interessati ovviamente, alcuni di voi raccontano di averli ricevuti, altri appunto come l'ascoltatore che è in attesa dal 4 di aprile, è un mese, tutto giusto, stiamo controllando, è su, anche perché lo abbiamo raccontato come esempio più di una volta, però ci ritorniamo e lo ripetiamo un'altra volta. Allora, in Germania, ma non è perché sono particolarmente fighi, cioè è che queste cose si fanno così: una situazione di emergenza, nelle casse delle persone in difficoltà si riversano, dato che l'IBAN ce l'hanno, e lo ripetiamo ancora una volta, l'IBAN, lo Stato ce l'ha, in qualche modo il nostro IBAN ce l'ha, lo Stato riversa a muzzo 5.000 euro, così, insomma, perché è un momento difficile, ti devo sostenere qualunque sia la tua condizione, che tu sia in difficoltà, che tu sia meno in difficoltà, che tu abbia patrimonio, che tu non abbia patrimonio, perché devo provvedere a questa situazione. È anche un modo per dare fiducia. Se tu mi stringi nelle maglie della procedura burocratica, dei documenti che devo portare, eccetera, eccetera, in una situazione di questo genere non ne esci più. E infatti non ne stiamo uscendo. E mettici anche insieme alla burocrazia statale, quella regionale, e abbiamo fatto bingo. Tra l'altro da luoghi insospettabili, lo sentivate prima, abbiamo parlato con Michele Faioli, la Lombardia, ma non è per attaccare la Lombardia, è che hanno fatto evidentemente un protocollo più complicato appunto per la concessione della cassa integrazione, e quindi la gente non la riceve, semplicemente. Il comportamento degli italiani, ci arriviamo tra un attimo, perché sono i titoli dei giornali di oggi, a questo sono dedicati in gran parte. Sono le 7:19 minuti e 54 secondi, è sempre 24 mattino, al microfono c'è sempre Simone Spezia ed è martedì 5 maggio ed è la parte dedicata alla rassegna stampa, con, come dicevo, le prime pagine dei quotidiani in gran parte dedicate a questo, almeno come titoli principali. L'Italia riparte senza caos, è il titolo del Corriere della Sera, con i malati che scendono sotto quota 100.000, i dati sulla mortalità che indicano un paese spaccato in due. L'Italia in mascherina riparte con un po' di paura, è il titolo del quotidiano La Repubblica. Il quotidiano nazionale scatta la fase 2, ripartenza ordinata. L'Italia riparte, poche sanzioni, è il titolo del Messaggero. Siamo ripartiti. Dove arriveremo? Questo non si sa, è il titolo di Libero. Altre scelte le fanno la stampa. Conte, non cambio la politica estera. Il premier replica al richiamo del Pentagono, insomma, al mettere l'attenzione su Russia e Cina e sull'estensione del loro potere. Il riferimento è all'intervista di ieri al segretario della difesa americana, ricorderete, ne abbiamo parlato. Il Sole 24 Ore si concentra ovviamente sull'aspetto economico. Ieri c'è il dato arrivato da Confindustria che è molto pesante, eh? La produzione è crollata del 50%, si è dimezzata. Fase 2, caos su tamponi, test e app, scrive il Sole 24 Ore. Infettato il governo, è il titolo del giornale, che mette insieme insomma, le questioni che hanno a che fare con Covid-19 e la vicenda Bonafede di Matteo. Ci arriveremo, sarà un pezzo ovviamente di questa rassegna stampa, perché c'è la questione Bonafede e c'è un'altra questione che riguarda la ministra Paola Pisano. Ci arriveremo tra un attimo, perché il Foglio sgancia una discreta bomba. La verità. Pagliacciata in mascherina, qua il tema delle mascherine, le protezioni a 50 centesimi sbandierate da alcuni sono introvabili, così come i guanti in latex e l'alcol. In vendita in farmacia ci sono solo le costose FFP2, FFP3, e quindi per i cittadini rispettare le prescrizioni è praticamente impossibile. Avvenire, vaccino senza frontiere, l'iniziativa europea che raccoglie 7 miliardi. Il manifesto, curva Italia, quasi 12.000 morti fantasma sui dati diffusi ieri dall'Istat. E infine un occhio alla Gazzetta dello Sport. CR7 pronto, via Ronaldo sbarca, da oggi bianconeri si allenano. Il tema appunto è un po' quello dello sport. Allora, iniziamo. Iniziamo da cose che hanno a che fare con, ovviamente, con Covid-19, con i tipici problemi italiani, sapendo che in questa rassegna stampa andremo su, diciamo, due o tre grandi direttrici. La prima è quella appunto di come inizia questa fase 2 anche dal punto di vista sanitario, che è un elemento fondamentale. Abbiamo provato a parlarne ieri con la sottosegretaria Sandra Zampa, la sottosegretaria alla salute, e però su una serie di cose c'è ancora molta poca chiarezza. Parleremo un po' sicuramente del tema delle differenze tra le regioni, dei problemi che hanno a che fare con la burocrazia e con delle mail che vanno perse. È successo tanto in Piemonte, delle mail dai medici di base, le mail delle ASL che vanno perse, quelle con le indicazioni su chi è infettato da Covid-19, è successo anche in provincia di Brescia, apprendiamo dal Fatto Quotidiano oggi. E poi la seconda direttrice è quella di cosa succederà adesso alle altre attività, quelle che sono rimaste chiuse fino adesso. Quelle che riapriranno il 18 maggio, si spera, come per esempio le palestre e i centri sportivi, secondo le indicazioni di Spadafora, le richieste di Spadafora. Il come si sono comportati gli italiani e il che cosa succede adesso, e poi le questioni politiche, le questioni economiche e le questioni politiche, su tutte la vicenda del ministro Bonafede e delle parole del PM Nino Di Matteo, che è sicuramente la questione politica di giornata, con Bonafede che torna sotto attacco e un rischio sfiducia nei confronti del ministro che si fa sempre più pressante, sia per tensioni interne al Movimento 5 Stelle sia per quello che vorrebbe fare Italia Viva, memore della battaglia andata in scena sulla prescrizione prima che tutto questo scoppiasse. Iniziamo però appunto dalle questioni che hanno a che fare con la cosiddetta fase 2 sanitaria, e inizierei dal giornale, perché Enza Cusmai a pagina 12 ci porta sulla questione dei test sierologici. I test sierologici cosa sono? Sono quelli, lo abbiamo raccontato mille volte, che indicano se nel nostro sangue ci sono gli anticorpi da Covid-19, e quindi sono quei test che permettono di avere un quadro epidemiologico un po' più chiaro su quello che effettivamente è successo in Italia. Sono quei test che sono partiti in alcune regioni, in alcuni comuni, ma non a livello nazionale. Dunque, che cosa si è fatto? E lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Il governo ha deciso, lo Stato ha deciso di incaricare l'Istat di redigere una lista di 150.000 persone. Queste 150.000 persone suddivise per vari parametri, ovviamente classi di età, i comparti lavorativi a seconda del rischio, figlio, il sesso naturalmente, cioè maschio o femmina e via dicendo. E queste 150.000 persone dovranno essere testate con test sierologici, appunto per capire qual è l'estensione di Covid-19 in Italia. E però che cosa succede? Succede che tutto doveva partire ieri. È partito? No, non è partito, naturalmente. E perché? Perché manca un ok per usare i dati. Doveva partire ieri, ma il test epidemiologico nazionale che ci farà capire quanto il Covid ha circolato veramente in Italia non partirà neppure domani. E né dopodomani. Il meccanismo è stato inceppato dalla solita burocrazia, anzi peggio. Per sbloccare la macchina dei prelievi sierologici serve un provvedimento ad hoc che autorizzi l'utilizzo dei dati sensibili a scopo sanitario, cioè i numeri di telefono dei cittadini chiamati a sottoporsi al test. All'INPS sperano che l'inghippo venga risolto nei prossimi giorni, perché c'è voluto tempo e grandi capacità per coordinare l'intero e delicato meccanismo. Ed è tutto pronto, compreso l'elenco di persone che saranno chiamate quando verrà autorizzato l'utilizzo dei numeri privati di ogni prescelto. Gli operatori telefonici devono consegnare l'elenco, spiega l'INPS da Laura Sabbadini, statistica e direttore centrale dell'Istat, ma qualcuno deve autorizzarli. È un problema di privacy, è un piccolo ma grande dettaglio da risolvere al più presto, visto che il resto del lavoro è già stato fatto in grande collaborazione di regioni, comuni e ASL. Tutte le istituzioni locali hanno collaborato. Quindi, come vedete, test sierologici che dovevano partire immediatamente e sono fermi, e tamponi in mezzo al guado. Ce lo racconta bene Marzio Bartoloni a pagina 8 del Sole 24 Ore su, appunto, questo nodo dei tamponi. Allora, il caos sull'uso dei test sierologici, insomma, viene citato anche qua da Marzio Bartoloni, sottolineando come qua sia un delirio, perché alcune regioni, alcuni comuni sono partiti, alcune persone lo stanno facendo in privato, e però se lo fai in privato non hai l'obbligo di trasmettere l'informazione all'altro ASL, e quindi l'ASL non sa se l'hai fatto oppure no. E poi ci sono i tamponi, tamponi a singhiozzo. Allora, sentite qua, dalla Protezione Civile ne sono stati distribuiti 3,6 milioni alle regioni, che ne hanno fatti però 2,1 milioni. Quindi ci sono 1,5 milioni di tamponi nei magazzini. Nelle ultimissime settimane molte regioni hanno aumentato la loro potenza di fuoco, ma non è stato sempre così, come ricordano le tante denunce di ritardo nelle diagnosi, con differenze macroscopiche tra regioni. Per esempio il Veneto, ormai lo sappiamo, che ha una strategia estensiva di tamponi, ne ha fatti finora oltre 380.000, più di quelli inviati da Roma, perché anche delle scorte sue, testando 220.000 veneti, quelli in più sono i tamponi di controllo. In valore assoluto la Lombardia ne ha fatti di più, solo che ha più cittadini, e quindi il Veneto ha testato quasi il doppio dei suoi cittadini rispetto alla Lombardia, 457 ogni 10.000 veneti contro i 251 della Lombardia. Ora, come capite, a questo punto la confusione è estrema, perché ci sono regioni che ne hanno fatti ancora meno, e avere un quadro epidemiologico chiaro di quanto è diffuso il contagio senza i test sierologici massicci, senza i tamponi fatti nello stesso modo egualmente all'interno delle regioni, in sostanza è praticamente impossibile. Per esempio in Basilicata sono stati testati, sono stati fatti 257 test ogni 10.000 abitanti, in Veneto quasi 500, Basilicata la metà del Veneto, e quindi il quadro che abbiamo è questo. In Campania, in Campania 83 test ogni 10.000 abitanti contro i 500 del Veneto. Come si fa ad avere un quadro epidemiologico preciso in questa situazione? Non si sa. Tanto che su come, diciamo così, c'è un tema più generale, no? Che ha a che fare il come si stanno muovendo le regioni e come si sta muovendo il governo, e le tensioni che attraversano le regioni e il governo. Pagina 8 del Messaggero. Il Messaggero si sta tornando spessissimo su questo tema, E Simone Cannettieri firma un pezzo che parla delle regioni, faro del governo sulla Babele di ordinanze, l'ipotesi di elezioni a luglio, perché come ricorderete le elezioni regionali erano state rinviate, a questo punto mi pare, se non vado errato, a ottobre, a questo punto però si torna all'ipotesi di elezioni a luglio. Anche qua, ragazzi, mi sembra che siamo un po' nel delirio. Se per il Veneto il primo lunedì di fase 2 segna già i liberi tutti, la Basilicata annuncia il tampone per chi arriva, seppur a carattere esclusivamente volontario, e poi c'è la Calabria che porta avanti lo scontro istituzionale, e parola della governatrice Iole Santelli, non ci pensa per niente a ritirare l'ordinanza che ha aperto bar e ristoranti, seppur la gran parte dei sindaci non la seguono. Di fatto il TAR oggi si esprimerà almeno sulla sospensiva, dopo la scelta del governo di impugnare il provvedimento. E via, via così. La fase 2 conserva le cattive abitudini della precedente, con le regioni in ordine sparso. Il ministro Francesco Boccia ha dato mandato agli uffici legislativi di passare ai raggi X tutte le ordinanze. Da quanto trapela non ci sarebbero grandi casi di iniziative che sbattono con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma di sicuro ormai tutti i territori si muovono in ordine sparso. Sullo sfondo inizia a prendere forma un altro dossier, quello delle elezioni regionali. Il virus ha bloccato il rinnovo dei consigli in 6 regioni, il test elettorale rinviato alla finestra di settembre-novembre, e però a quanto pare il governo starebbe dando nuovi segnali e starebbe ipotizzando un voto a luglio. Una pausa, poi torniamo. Anzi no, prima della pausa, ci pigliamo un altro minuto, perché il pezzo di è strettamente correlato a tutto questo, il pezzo di Andrea Tornago sul Fatto Quotidiano a pagina 11, che ci racconta di quello che è successo a Brescia, che era già successo in Piemonte. Solo un problema tecnico, un disguido prontamente risolto, assicura l'azienda territoriale sanitaria di Brescia. Fatto sta che molte segnalazioni di sospetti casi di Covid-19 inoltrate dai medici di medicina generale alla regione Lombardia sono scomparse. La perdita dei dati doveva essere così significativa da giustificare una comunicazione ufficiale inoltrata lo scorso 27 aprile dal Dipartimento Cure Primarie dell'ATS di Brescia a tutti i pediatri e i medici di famiglia che fanno capo all'agenzia. Spiacenti per il disguido, rappresentato dalla scomparsa di molte vostre segnalazioni, vi assicuriamo che con i referenti regionali ci si sta adoperando per recuperare ogni scheda. Si è persa una mail su 3, il 30% delle segnalazioni di sospetti casi Covid mandate dai medici di base alla TS di Brescia sarebbe andata perduta. Una pausa. Mattino. Simone, ma sto fatto qua della partita IVA che sono stati i primi a avere i 600 euro, ma secondo te ti sembra una cosa normale? Cioè, il mio datore di lavoro, suo figlio, oltre 100-150 mila euro di guadagni l'anno con la partita IVA, ci hanno avuto i 600 euro che hanno detto, ma me li hanno dati, li ho chiesti. Cioè, io sono 2 mesi che sono a casa, in cassa integrazione non ho avuto una lira e io viaggio intorno ai 20-25 mila euro all'anno. Secondo voi è una cosa normale? Dal mio modestissimo punto di vista il comportamento è stato questo. Adulti in coda, take away, mascherina, ragazzini in bicicletta, in branco, tutti attaccati all'alto senza mascherina, quindi non so, loro evidentemente non hanno l'obbligo di portare la mascherina, non devono rispettare le distanze sociali, o forse sono i genitori cretini che li fanno andare in giro senza nessun controllo. Buongiorno, sono Gerardo, non solo la Lombardia, ma io che vivo in provincia di Caserta, Nisba, ma qua la cassa integrazione, non si vede l'ombra neanche di chi deve dare i soldi, noi soldi. Capito? Se c'è gente che prende 600 euro, insomma, normalmente guadagna tanto, e persone che la cassa integrazione ancora l'aspettano, beh, evidentemente c'è un problema. Allora, la seconda parte di questa rassegna stampa La voglio, in questa apertura di seconda parte, voglio portare sulla questione politica. Così, per così dire, prendiamo un po' di aria dalle questioni di Covid-19, sulle quali torneremo tra un attimo, perché ci sono altri spunti interessanti. Il tema, certo, è la riapertura delle palestre e dei centri estetici in anticipo. Un po' di riflessioni, se volete, anche su gli effetti psicologici, no? Di questo lockdown, di questo isolamento prolungato, e poi, se vogliamo, anche un elemento di esteri, con questo scontro tra gli Stati Uniti e la Cina all'ombra di Covid-19. E però c'è questa questione politica che sta dominando la scena e che sta creando più di qualche problema al ministro Bonafede e allo stesso Movimento 5 Stelle, e potrebbe creare qualche problema anche al governo. Cosa è successo? Ormai lo sapete, lo riassumo per chi insomma non avesse seguito la vicenda. Nella puntata di Non è l'Arena di Giletti di domenica è intervenuto il PM Nino Di Matteo, il quale ha detto: il guardasigilli Alfonso Bonafede mi ha offerto la direzione dei penitenziari, cioè la direzione dell'amministrazione penitenziaria, ossia delle carceri. Dopodiché sono arrivate delle intercettazioni dei boss che dicevano: questi sono matti, vogliono mettere Di Matteo alla direzione delle carceri, quello non ci fa uscire più, non ci dà più benefici e via dicendo, e Bonafede a quel punto avrebbe ritrattato e mi avrebbe offerto la direzione affari generali del ministero, adesso si chiama così, prima si chiamava direzione affari penali, insomma questo è un'accusa molto pesante, insomma la sostanza è questa, l'accusa è: il ministro Bonafede si sarebbe piegato al volere dei boss. All'ombra di tutto questo ovviamente esplode uno scontro e un problema, perché è un problema all'interno del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle ha sempre eletto il PM Nino Di Matteo, quello della trattativa Stato-mafia, a sua icona. Tanto che, insomma, citato più volte nel blog di Beppe Grillo come possibile addirittura ministro della giustizia. E dunque arrivano le reazioni a tutto questo, con Bonafede che da una parte smentisce, dall'altra parte troviamo una serie di ricostruzioni all'interno dei quotidiani. Una delle ricostruzioni è quella del Fatto Quotidiano che con Antonella Mascali ci racconta un po' quello che c'è dietro. A pagina 20, secondo quanto risulta al Fatto, le conversazioni dei capi mafia in carcere furono riportate in una relazione del DAP al ministro il 9 giugno del 2018, e cioè prima che Bonafede proponesse a Di Matteo le due possibilità, DAP e affari penali. Telefonate e incontri tra i due si svolgono infatti tra il 18 e il 20 di giugno. La mancata nomina di Di Matteo al DAP fu rivelata dal Fatto il 27 giugno, quando abbiamo dato conto delle reazioni allarmate dei boss al 41 bis. Vogliono fare Di Matteo capo delle carceri, questi soppazzi. Quindi, come capite, questa è la ricostruzione del Fatto Quotidiano, ossia l'offerta di Matteo sarebbe arrivata dopo questa relazione giunta al ministro, e quindi il ministro non si sarebbe fatto condizionare dai boss. Nella ricostruzione del Fatto Quotidiano sarebbe avvenuto l'esatto contrario. Tutto questo non convince, almeno politicamente, il centrodestra e un pezzo della maggioranza. Il ministro deve dimettersi, bomba innescata nel governo, racconta Laura Cesaretti nel suo retroscena sul Giornale a pagina 3. La tiepida difesa del Partito Democratico, Renzi critico, opposizioni all'attacco, c'è una sorta di poetica nemesi, scrive Cesaretti, nella sciagura che si è abbattuta sull'ala grillina del governo, con il magistrato considerato un vero e proprio guru dai manettari 5 Stelle, che accusa in pratica di concorso esterno in associazione mafiosa il ministro grillino più importante, reo di non avergli assegnato l'incarico cui ambiva. Questo il, poi si fa un po' una ricostruzione, no? del racconto. La sintesi più azzeccata la fornisce Matteo Renzi, feroce critico del guardasigilli. È un pesante regolamento di conti tra giustizialisti. È in serata, da Italia Viva precisano. Stavolta non ne chiediamo le dimissioni. Un processo di piazza da parte di un magistrato è intollerabile. Nessuno tocchi Bonafede. Le opposizioni invece sono partite lancia in resta contro il guardasigilli già nella serata di domenica, mentre lo scontro tra Bonafede e Di Matteo si consumava nel circo TV di Giletti. La parola d'ordine è dimissioni. Fossi nei panni del ministro le rassegnerei subito, dice Giorgia Meloni. Le accuse a Bonafede sono gravissime. Stiamo valutando i prossimi passi, perché è chiaro che se uno dei due mente, se mente un magistrato come Di Matteo è grave, se mente il ministro di giustizia è devastante. In tutto ciò naturalmente si fa notare da più parti, lo fa per esempio anche Marco Travaglio nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano, che insomma qua ci si trova a parti invertite, no? Con il Movimento 5 Stelle che si trova a difendere in parte, lo hanno fatto ieri Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, il ministro Bonafede, contro Di Matteo, e il centrodestra, che insomma Di Matteo non ha mai avuto un buon rapporto, per così dire, invece che si trova a difenderne le posizioni. Ma il tema è che qua anche all'interno della maggioranza le tensioni intorno al ministro si fanno un po' più forti, no? Perché racconta Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, pagina 21, il magistrato simbolo imbarazza i 5 Stelle e la sfiducia tenta Renzi. E dunque racconta Annalisa Cuzzocrea appunto che il mood registrato ieri nelle chat dei parlamentari del Movimento 5 Stelle era, secondo quanto racconta un senatore, tra Di Matteo e Bonafede ci fidiamo di Di Matteo. E poi c'è il punto di Italia Viva. Cosimo Ferri, renziano in Commissione Giustizia alla Camera, ha chiesto le dimissioni del guardasigilli. E nei colloqui di ieri è stato lo stesso Renzi a ricordare dove si era fermata la legislatura prima dell'emergenza coronavirus. Sulla mozione di sfiducia minacciata da Italia Viva proprio contro Bonafede sulla prescrizione. Se Salvini è furbo e non prepara una mozione giustizialista ma intelligente, ha detto ieri l'ex premier ai suoi senatori, potremmo votarla. Potrebbe ricominciare tutto da dove si era interrotto a metà febbraio. E dunque la testa di Bonafede in gioco in questo momento. C'è un altro ministro del Movimento 5 Stelle che da oggi, con il pezzo che pubblica Luciano Capone sul Foglio, potrebbe trovarsi sotto attacco, ed è la ministra dell'innovazione tecnologica, Paola Pisano. Racconta Luciano Capone questo. Beh, insomma, il tema è quello dell'app Immuni, che forse arriva a metà maggio, forse arriva a fine maggio, entro maggio, come ci ha detto ieri la sottosegretaria Zampa. Beh, anche questo insomma, è nelle more di quel che succede nella gestione di questa crisi. E però, che cosa è successo? Che l'app antivirus è stata scelta, secondo quello che racconta Luciano Capone, con una manipolazione del ministro Pisano. E perché? Nella gestione di un'epidemia, soprattutto quando si chiede ai cittadini l'uso dei loro dati, sono fondamentali tre cose: chiarezza, trasparenza e correttezza. Nella scelta dell'app per il contact tracing, uno degli elementi alla base della strategia del governo per la prevenzione e il contenimento del Covid-19, il ministro dell'innovazione Paola Pisano ha invece preferito bugie e opacità. Attribuendo la scelta dell'app Immuni alla task force, la ministra Pisano ha mentito a tutti, al Presidente del Consiglio e ai cittadini. Non è affatto vero che sono stati i tecnici del gruppo di lavoro a scegliere l'app di Bending Spoons. E questo emerge dal confronto tra il contenuto del report della task force, da pochi giorni reso pubblico, e delle comunicazioni del ministro del Movimento 5 Stelle. Cosa succede? Succede che Pisano ha riferito al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai cittadini italiani che l'app scelta dalla task force era Immuni, ma la task force in realtà aveva indicato due applicazioni possibili e aveva raccomandato di testarle in parallelo per verificare quale potesse essere migliore. Immuni era più avanzata dal punto di vista tecnologico, più in avanti dal punto di vista tecnologico, l'altra app portava, racconta Luciano Capone, degli altri benefici. Fatto sta che nel racconto appunto di Luciano Capone sul Foglio, lo trovate alla prima pagina, poi segue a pagina 4, appunto il ministro avrebbe mentito al Presidente del Consiglio e anche ai cittadini. Il traffico. "24 mattino". sono Franco, partita IVA, agente di commercio, 2 mesi che non fatturo, non guadagno nulla. Ieri mi è arrivata la mail della commercialista perché l'INPS mi chiede i versamenti dei contributi di circa 1000 euro che posso comodamente portare a fine giugno, naturalmente mi si sommano con quelli che verranno dopo, non mi hanno tolto assolutamente niente, mi hanno solo procrastinato le cose. E non ho ancora avuto i 600 euro, tanto decantati. Ed ecco, un'altra testimonianza. Evidentemente le cose non stanno andando così celermente come si sperava, è chiaro, no? L'aspetto economico, se volete una buona testimonianza di quello che sta succedendo, no? In termini non solamente macro, l'apertura del Sole 24 Ore, ve l'abbiamo detto, sono questi dati di Confindustria che indicano una produzione industriale in calo di oltre il 50%, sono i dati del Centro Studi, in 2 mesi una caduta senza precedenti, su base annua la flessione registrata ad aprile è del 45%, gli ordini sono a picco, il freno alla ripresa arriva anche dalle scorte da smaltire e dal cambio delle abitudini di spesa delle famiglie, che sono ovviamente in una situazione come questa diventate più prudenti. Ma a volte le storie servono, no? A raccontare effettivamente che cosa succede e quali sono i rischi di una situazione di questo genere. Dunque la storia la riporta sempre il Sole 24 Ore, la riporta con Simone Filippetti, la foto notizia a pagina 16 ed è la storia del maxipolo di Segrate di Westfield. Sarebbe stato lo sbarco nell'Europa continentale del grande progetto di un mega centro commerciale targato Westfield, un investimento da 1.600 milioni di euro, è questa la dimensione, e che adesso si ferma, almeno per il momento naturalmente. L'imprenditore italiano Percassi, che è socio al 25%, dice: ma andremo avanti non appena ci sarà chiarezza. Ma per darvi la misura di quello che si è fermato, l'atterraggio di Westfield da Londra alla periferia di Milano avrebbe richiesto di costruire un apposito svincolo stradale per 92 milioni, al momento rinviato. Si parlava di uno sbarco in Italia di Westfield da almeno 10 anni, il primo progetto risale addirittura al 2011 con 60 ettari di pianificazione commerciale. L'idea sarebbe stata di portare questo maxi centro commerciale con dentro anche le Gallerie Lafayette di Parigi, e quindi insomma anche una cosa particolare. Ebbene, un investimento da 1,6 miliardi che si ferma. Tanto che il Sole 24 Ore nota, mentre su tutti i giornali trovate i dati dell'Istat, dell'Istituto Superiore di Sanità, ieri, che ci indicano i tassi di mortalità, come sono cresciuti in alcune zone d'Italia, a Bergamo, insomma, nella provincia di Bergamo del 568%, a Lodi del 371%, in calo per esempio a Roma del 10% i tassi di mortalità in assoluto, non solo correlati a Covid-19, e però chiaramente riconducibili a questo. Invece il Sole 24 Ore fa una scelta diversa, perché da questo rapporto cava come titolo il rischio delle nascite. La soglia psicologica dei 400.000 nati all'anno potrà essere raggiunta nel 2021 e non come era atteso nel 2032. Che cosa succede? Molto semplicemente che la crisi economica, la disoccupazione, i rischi per i posti di lavoro e per le imprese potrebbero spingere la gente, a differenza di quanto si è ironizzato molto in questo periodo, no? Si è detto: il lockdown, si sta più a casa, chissà quanti i figli nasceranno. E beh, ovviamente invece non è così, perché la preoccupazione economica da questo punto di vista domina su tutto. La crisi, con le incertezze e paure diffuse, le improvvise difficoltà economiche e materiali imposte a milioni di cittadini, scrive Davide Colombo, potrebbe avere un impatto a breve termine anche sui progetti di fecondità. L'Istat su questo ha presentato al Parlamento un'analisi sul DEF nella quale si tracciano nuovi scenari critici, le simulazioni. Dopo i 435.000 nati del 2019, i 428.000 ipotizzati per il 2020, alle condizioni pre-Covid, si potrebbe ora scendere a circa 426.000 nel bilancio finale dell'anno e poi ancora a 396.000 nel caso più sfavorevole nel 2021. Questo è, un'eventuale accelerazione post-Covid-19 del declino strutturale della natalità rappresenterebbe secondo l'Istat un aggravante della cui entità è certamente utile avere un ordine di grandezza, quantomeno per poter assegnare un adeguato grado di priorità nelle azioni che dovranno portare, una volta fuori dell'emergenza, a un ritorno alla normalità. Quindi, come capite, insomma, c'è una questione che ha a che fare con le nascite. I precedenti ci sono, c'è un riferimento alla Grecia che durante la crisi 2008-2013 sperimentò un calo delle nascite del 20,4%. La Germania orientale, un paese che a fine 1989 aveva quasi 17 milioni di abitanti e registrava circa 200.000 nascite annue, a distanza di un triennio è sceso del 56%, attestandosi a meno di 90.000 unità. E quindi tutti i segnali negativi su questo fronte ci sono. Allora, ancora Italia alle prese con Covid e uscendo dall'aspetto economico. Ci sono le questioni delle riaperture, per esempio, di cosa riparte, di cosa non riparte, di come ricominciare. Qua, insomma, molti sono in attesa, non solo gli operatori economici del settore, ma per così dire tutti noi che abbiamo preso un discreto numero di chili e abbiamo dovuto allargare le cinture in questo periodo di inattività forzata, la riapertura delle palestre e dei centri sportivi. Qua il pezzo lo firmano Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini a pagina 7 del Corriere della Sera e ci raccontano delle distanze, turni rigidi e attrezzi sanificati. In palestra il 18 maggio, questa è l'ipotesi, quindi si sta ragionando che fra 10 giorni, fra un paio di settimane si possa ricominciare. Nella richiesta di parere per il Comitato Tecnico Scientifico sarà indicata anche la data 18 maggio 2020. È il giorno in cui il ministro dello sport Vincenzo Spadafora vorrebbe far riaprire le palestre. Possibile che questa scadenza slitti di un'altra settimana per consentire ai gestori di adeguarsi alle regole severe contenute nel protocollo, ma l'obiettivo è ripartire entro la fine del mese. E nelle regioni dove l'indice di contagio avrà raggiunto la soglia minima, quel R0 pari a 0,2, anche parrucchieri e centri estetici potrebbero anticipare rispetto all'indicazione del 1 giugno, data dal premier Conte al momento di presentare il decreto, se i dati del monitoraggio saranno buoni, ma dovranno farlo seguendo regole rigide, visto che secondo le tabelle stilate dall'INAIL si tratta di mestieri inseriti nella fascia di rischio medio-alta e per questo si è deciso di metterli in fondo alla lista come bar e ristoranti. Quindi naturalmente non si potranno usare gli spogliatoi, si calcolano 7 metri quadri di spazio, quindi per le palestre piccole sarà particolarmente difficile e complicato. Si parla di sanificazione degli attrezzi dopo ogni utilizzo, e sanificazione non vuol dire una pulizia superficiale, vuol dire qualcosa di un po' più serio. Quindi non sarà facile adeguarsi a queste prescrizioni, e però l'ipotesi di riapertura il 18 maggio c'è. Infine, un'occhiata all'aspetto psicologico mi ha incuriosito, devo dirvi, sempre sul Corriere della Sera, pagina 11, questo pezzo firmato da Monica Virgili di taglio basso che intervista Valentina Di Mattei, una psicologa clinica al San Raffaele, che ci racconta, io non so se qualcuno di voi stia sperimentando questo, però è interessante. C'è chi fatica a uscire dalle vite sospese. Abbiamo tanto desiderato il ritorno a una vita normale, ma ora sotto traccia balena un pensiero difficile da ammettere. Quasi quasi non esco più. Non è così raro sentire persone che si sono adattate fin troppo bene alla reclusione domestica, al punto da temere il ritorno alla vita normale. Come mai? Sarebbe imprudente, spiega la psicologa, generalizzare sulle ragioni che possono generare una tale paura, però per molti questo è stato un tempo sospeso, per certi versi simile all'adolescenza, in equilibrio tra l'infanzia e l'età adulta. E questo potrebbe generare il problema. GR24, ci risentiamo subito dopo con Maria Latella e i nostri ospiti.